A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Anni di indagini, poi l'archiviazione. 4 anni che gli hanno cambiato la vita, tolto l'incarico ai vertici della polizia, sottratto la serenità, un po' anche la salute. Poi il GIP di Roma ha cancellato tutto, ma non per questo. Il prefetto Nicola Izzo, già numero 2 della polizia, è riuscito a avere tutto quanto aveva perduto per colpa di quell'inchiesta. A cominciare dall'onore, dice e ripete ora. Ora che ha voglia di sfogarsi, ora che l'indagine sulla costruzione del centro elaborazione dati di Napoli, costato 37 milioni, è franata. Per lui, come per il prefetto Giovanna Jurato, per l'ex direttore della DIA Antonio Girone e altri 12 indagati. Per gli inquirenti partenopei quell'appalto era viziato, ma per il giudice invece, anche se la procedura di assegnazione è stata portata a termine in modo convulso, contingentato e con un certo grado di approssimazione, si legge, non si può automaticamente concludere che erano state tenute condotte costituenti reato, scrive il giudice. Quindi tutto finito, ma ora rivoglio la mia onorabilità, scandisce il prefetto, che all'epoca, nel 2010, era in corsa per la guida della polizia. L'archiviazione rappresenta certamente il riconoscimento che non avevamo fatto assolutamente nulla che non fosse più regolare, specie se uno va leggendo le motivazioni della sentenza, della richiesta del pubblico ministero e della sentenza del GIP, che a un certo punto citano che anche nella più severa delle letture la procedura appare non irragionevole e peraltro conforme alle previsioni di legge. Più di tanto, penso che la verifica finale dell'autorità giudiziaria non poteva riconoscere. Nei fatti ha riconosciuto che appunto non era stato commesso nulla di illecito, però quello che volevo chiederle io è una sentenza che stabilisce la sua estraneità, sua e delle altre persone che erano state coinvolte da questa inchiesta, però appunto per questa inchiesta lei si era dimesso da vice capo della polizia, non esattamente un ruolo secondario. La giustizia sa anche accertare le estraneità, quindi delle persone indagate e quindi verificarne le estraneità, però allo stesso tempo restano le conseguenze delle inchieste vissute. Ma io per questo, dottoressa, sostengo che i processi terminano, ma la giustizia non trionfa, perché se la giustizia deve trionfare deve anche farsi carico che allorquanto si verificano le estraneità di chiunque, di qualsiasi cittadino rispetto a un possibile chiamata in attività non più che illecite, bisogna anche che si faccia il problema di come restituire alla persona che è stata sottoposta ad indagine il suo onore, la sua dignità professionale. Se ciò non accade vuol dire che non siamo di fronte al trionfo della giustizia, ma siamo soltanto al termine di un processo. Lei fa un discorso più ampio, ma è ovvio che ricordando anche quando l'inchiesta cominciò e ricordando anche il clamore che quell'indagine ha avuto anche per proprio perché coinvolgeva innanzitutto lei, quindi il numero 2 della polizia italiana, ecco quello che lei dice, diciamo tutto quello che c'è stato intorno a quell'inchiesta in qualche modo non viene totalmente risarcito da questa sentenza di estraneità. Il risarcimento sembrerebbe qualcosa di estremamente materiale, io ne faccio un discorso di un po' di etica se si vuole, perché spesso nel paese, specialmente negli ultimi tempi, e io credo anche giustamente, si chiede che a chiunque abbia responsabilità di fare dei passi indietro quando nascono delle ombre. Ora, se questo deve essere l'etica del comportamento, bisogna che quando le ombre vengono fugate ci sia un modo per poter restituire a queste persone che il passo indietro hanno fatto quello che il loro prestigio personale, la loro dignità professionale, che anche quella serenità della dignitas Caritas dà a qualsiasi uomo, ecco. Ritorniamo un attimo con la memoria a quei giorni, prefetto, appunto a quei giorni in cui questa inchiesta venne fuori, appunto le veniva contestata la turbativa d'asta e la rivelazione del segreto della gara d'appalto. Ecco, ovviamente, come spesso succede, come dicevamo, per inchieste importanti, se ne parla, clamore, titoloni sui giornali, in questo abbiamo una responsabilità, un ruolo, diciamo, anche noi giornalisti, ma è inevitabile che una notizia come quella di un'inchiesta che coinvolge delle persone importanti rappresenta una notizia, quindi viene raccontata. A quel punto, diciamo, lei decide di rassegnare le sue dimissioni. Ci vuole raccontare, diciamo, il momento in cui prese questa decisione, si confrontò con l'allora capo della polizia, il prefetto Manganelli, che poi è scomparso? Guardi, io la decisione l'ho presa proprio in totale solitudine, nell'immediatezza dei fatti. Conseguentemente, diciamo, forse un po' anche sorpreso il mio capo della polizia, che peraltro non voleva che io mi dimettessi. Però io ero convinto di cose. Prima, che è giusto fare un passo indietro quando ci sono questi clamori, perché altrimenti i clamori finiscono per investire le istituzioni, e le istituzioni non meritano il clamore causato dal soggetto ricada su di loro, ma anche perché credo che forse c'era qualche, come possiamo dire, qualche cattivo pensiero nel voler coinvolgere il capo della polizia dell'epoca, costringendolo a una sua sostituzione in un momento che io ritenevo estremamente e particolarmente delicato della sua vita. Cioè, in sostanza, lei ha pensato di essere stato un bersaglio per una sostituzione al vertice della polizia? Ma guardi, non l'ho pensato io soltanto, diciamo che c'è una larga maggioranza di pensiero che coinvolge questo fatto, tant'è che se lei va a rileggere la stampa dell'epoca rileverà che questo era un pensiero e forse anche un'ipotesi che veniva adombrata dalla stessa stampa. Che lei fosse, diciamo, appunto il numero due della polizia, quindi persona molto vicina al vertice, quindi molto vicina al prefetto Manganelli, era un dato di fatto, e che quindi in qualche modo diciamo questa inchiesta coinvolgendo lei potesse lambire anche il numero uno della polizia. Non, per carità, sulla tipologia di inchiesta, guai soltanto a pensarlo, ma nelle polemiche, il clamore delle polemiche sul diciamo sull'ipotesi di responsabilità del vicecapo vicario potesse coinvolgere una diciamo immagine dell'istituzione lato senso e conseguentemente di chi aveva la massima responsabilità. Ne parlò, ebbe un confronto anche con dei referenti politici nel momento delle sue dimissioni? No, dottoressa, io ho soltanto parlato col ministro, al quale dicevo che siccome io, quando mi aveva gratificato del respingimento delle prime dimissioni, gli ho detto che io non sono un personaggio da operetta che aspetta che gli respingano le dimissioni per poi ripresentarsi. Le dimissioni, quando si danno in maniera irrevocabile. Poi, ma proprio per questo, io credo che nel momento in cui le ombre vengono fugate, bisogna vedere che cosa e in che modo va ristornata la figura della persona che è stata sottoposta a questo stillicidio di immagine, di oltraggio alla sua dignità. Ecco, prefetto, lei appunto da vicecapo vicario era di fatto il successore in pectore naturale alla guida della polizia. No, dottoressa, queste sono favole, non era né il successore. No, però ecco, sicuramente, però era la persona più vicina a Manganelli. Un candidato come tutti quanti. Un candidato, poi sappiamo che le logiche per la nomina del capo della polizia spesso, come dire, risettono e riflettono anche di tanti equilibri più diversi, però sicuramente siamo era uomini uno di mondo, di conseguenza convinto che più che avere la chance di essere un candidato non mi fosse dovuto altro. Ecco, però appunto lo era e sicuramente questa inchiesta l'ha completamente, almeno in quel momento, diciamo, candidato in meno. Tolto dalla corsa. Ecco, un candidato in meno. Con l'archiviazione ricevuta, lei è tornato in qualche modo a farsi vivo con l'attuale ministro Alfano? Io so che il ministro mi vuole parlare, appena penso avrà la possibilità mi riceverà. lei vorrebbe tornare nel suo ruolo, è questo che è la forma di risarcimento che in qualche modo... Guardi, ci sono titolari e titolati per i ruoli di vertice e ascendere della polizia, io non ho nessuna idea, ambizione candidarmi a situazioni di questo tipo, io dico soltanto che ritiene nell'ambito di un discorso più ampio, guardi, perché se lo facessi solo per me stesso lo riterrei meschino, nell'ambito di un discorso più alto, a un paese che invoca il passo indietro bisogna pure che si attrezzi a restituire a chi il passo indietro l'ha fatto quella dignitas che gli è stata tolta o che hanno preteso che il paese oggi invoca venga tolta. Quale risarcimento per un funzionario dello Stato travolto da un'inchiesta da cui poi è stato scagionato? La giustizia ha fatto il suo corso, ma non sempre questo basta. A ciascuno il suo. Studio e ricerca per la rete delle prefetture italiane. Da un po' di tempo è questo l'incarico del prefetto Nicola Izzo, un lavoro dietro le quinte per un funzionario che è stato in corsa per la guida di tutta la polizia italiana dopo anni al fianco di Antonio Manganelli. A lui consegnò le sue dimissioni irrevocabili quando fu travolto nel 2010 dall'inchiesta sugli appalti al centro servizi di Napoli e ora che il Tribunale di Roma ha archiviato tutto, rivorrebbe indietro tutto ciò che allora ha perduto e non parla tanto di soldi quanto di quella dignitas, per dirla con le sue stesse parole, adombrata all'epoca dai titoloni sui giornali con le accuse nei suoi confronti. L'attuale ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ora lo vuole incontrare, ci dice. Un paese che invoca il passo indietro bisogna pure che si attrezzi, a restituire a chi il passo indietro l'ha fatto quella dignitas che gli è stata tolta o che hanno preteso che il paese oggi invoca venga tolta. E lei non ha pensato invece anche a forme di richiesta di risarcimento economico? Guardi, risarcimenti economici, se ci saranno ipotesi che vanno percorse nell'ambito di un procedimento civile, è un problema che valuteranno gli avvocati. Io non credo di dover chiedere all'amministrazione nulla per quanto riguarda. Volevo ripercorrere con lei, le tappe di questa inchiesta, come si era sviluppata, come era arrivata. Io sto ai fatti, alle carte, non posso ipotizzare del perché. Le carte mi dicono che non c'erano i presupposti che configurassero dei reati. Il giudice dice che la procedura non è irragionevole conforme alla norma, questo se tanto mi dà tanto significa che non c'era configurazione penale per quanto riguardasse la fattispecie che si ipotizzava. Sì, nessuna configurazione penale appunto tanto è vero che appunto è stata chiesta e data l'archiviazione nei suoi confronti, anche se è come di tutti quanti gli come altri, negli altri, come degli altri, anche se nella sentenza propria o tra gli appunti ha segnato che lo stesso GIP in realtà parlava di una procedura portata a termine in modo però un po' convulso e con un certo grado di approssimazione. Questo è quello che scrive. Ma questo dobbiamo un po' poi scendere per i rami, perché la procedura non appartiene sicuramente a chi decide di fare determinate cose, quindi è chiaro che dobbiamo scendere tra i rami, però il giudice, pur non appartenendo a me questo richiamo, devo sottolineare che dice anche giustificato dal fatto che altrimenti si sarebbero persi gli investimenti, le risorse per gli investimenti. Quindi non è che non comprende e non giustifica perché ci potesse essere stata una certa fretta, lo comprende perché altrimenti si sarebbero persi dei soldi. Io penso che in questo paese, vista anche la situazione generale, andare a perdere dei soldi per degli iperformalismi di tipo burocratico può darsi pure che sia un peccato estremamente veniale. La questione, il cuore dell'inchiesta, appunto, come ricordavamo, la costruzione del centro elaborazione dati di Napoli, che se non sbaglio è costato più di 30 milioni di euro, 37, ricordo bene? Sì. Ecco, che cos'è? È un centro di elaborazione dati, dottoressa, che mi dicono, perché io poi manco da 2 anni dall'amministrazione, mi dicono che funzioni perfettamente, mi dicono che ha costituito anche elemento di risparmio, mi dicono che è di piena soddisfazione per la sua funzionalità, ragion per cui io credo che tutto sommato abbiamo fatto qualche cosa di utile. Mancava un punto di riferimento di questo tipo? Perché serviva questo centro? Perché, diciamo, siccome credo che l'informatica sia qualcosa che si sviluppi sempre più all'interno del buon funzionamento delle amministrazioni, c'era la necessità di innovare. Tenga conto che la scelta di fare questo intervento non è neanche mia, è antecedente al mio ingresso, diciamo, in campo, quindi era già stato scelto di farlo ed era già stato scelto di come finanziarlo. Io intervengo in una fase successiva in cui convalido, in una riunione collegiale per giunta, perché le decisioni di fare questi tipi di investimento non è che fossero monocratiche, in una riunione collegiale convalido quello che era già stato avvalorato e scelto, diciamo, dei miei predecessori. Conseguentemente la cosa parte e viene portata regolarmente a compimento. Con tutto quello che poi successivamente è avvenuto. Ora lei confida che, diciamo, il lieto fine conclusivo di questa vicenda, che è stata anche molto, diciamo, complicata, anche faticosa, anche da un punto di vista personale, immagino, perché come tutte le inchieste che travolgono in pieno soprattutto persone che abbiano un profilo pubblico molto, molto forte, ci sono anche poi delle ricadute anche sotto tutti gli aspetti della vita personale e professionale. Quindi le dicevo, quindi lei confida che questo lieto fine in qualche modo possa arrivare da una nuova proposta dai vertici del Viminale. Guardi, io confido soltanto in una cosa: prima di aver ritrovato la mia serenità, secondo di aver ritrovato la serenità dei miei familiari, che ovviamente hanno sofferto con me questa situazione. Confido di aver riottenuto il credito che avevo dai miei colleghi e nell'ambito della mia amministrazione, che ha potuto verificare nei fatti e nelle sentenze che non c'era stato nulla. Questo è quello che mi appartiene a me come essere umano. Per quanto riguarda le responsabilità che ne debbano derivare di fronte a questi gesti, non è più un problema mio, è un problema che si devono porre gli altri. Che cosa vuol dire autoallontanarsi, diciamo, da un ambiente, da un contesto, da un ruolo, perché travolti da un'inchiesta? Cioè, noi spesso raccontiamo i fatti, le indagini e poi appunto le conseguenze con i passi indietro quando cosa ci sono. Cosa vuol dire autoallontanarsi? Cioè, nel senso che in un ambiente come il suo, soprattutto. Ho lavorato, devo dire, sempre abbastanza, insomma, forse anche molto, significa anche poter trarre un sospiro di sollievo nel dire, dice, guarda, non devo più sacrificarmi oltre qualsiasi limite nel voler collaborare e partecipare alla vita della mia amministrazione. Quindi quando non si difendono poltrone, ma si difende soltanto il proprio lavoro, guardi, non ci sono ripercussioni negative. Ti può dispiacere, puoi avere delle amarezze per il come, ma non sicuramente per il fatto in sé. Ma io è al come che mi riferivo, perché quello che volevo dire, non è una modalità come le altre, nel senso che la decisione di fare un passo indietro perché in quel momento c'erano delle ombre, c'era un'inchiesta che la riguardava in un ambiente come il suo, quindi di uomini, di funzionari dello Stato, quindi ai vertici della polizia, in qualche modo porta a sentirsi, e anche nel rapporto con gli altri, con i colleghi, in qualche modo ci si sente un po' come, non so, come la pecora nera allontanata, come ci si sente, viene trattati un po' come appestati. Lei forse penserà che io sto facendo un peccato di presunzione, ma le posso garantire che le potrei testimoniare anche, diciamo, per quella che è la corrispondenza scritta che ho avuto nel corso di questi anni, che nel mio ambiente credo che nessuno, o pochissimi, perché poi uno le invidie ce l'ha sempre, i puffi invidiosi ci sono sempre, nessuno ha pensato che io avessi fatto, diciamo, qualche cosa di irregolare, quindi io non mi sono sentito, diciamo, la pecora nera, mi sono sentito uno che si faceva da parte potendo conservare tutte quelle che erano i legami umani, che sono i più importanti poi nella nostra vicenda professionale, così come lo erano prima. Quindi non c'era, non c'è questa, non ha vissuto, diciamo, questa sensazione di emarginazione che pur a volte, però è successa, è capitata, mi è capitato di ascoltare, di intervistare persone travolte da inchieste con, diciamo, ruoli di vario tipo, che raccontavano la propria condizione di emarginato, di appestato, con cui nessuno più parla, diciamo così. Io posso dire ad onore e vanto della mia amministrazione che non ho mai avuto questa sensazione, forse perché un po' sapevano chi era la persona che aveva fatto questo gesto e quale poteva essere l'errore, perché io posso aver sbagliato mille volte nella mia vita, ma sicuramente non contro la legge. Se ho sbagliato, come erra qualsiasi essere umano, solo i cretini pensano di non sbagliare mai. E questa è una grande verità. E questa è una grandissima verità, e su questa direi, prefetto, che la saluto e la ringrazio della sua disponibilità. Le faccio gli auguri di Pasqua anche. E, anche a lei, e a chi ci ascolta. No, adesso l'intervista, l'intervista poi si ferma prima, no? Adesso stiamo registrando, certo, ma l'intervista si ferma prima, anche bene, perché, come dicevo, andrà in onda l'altra domenica. Attenzione, perché serve a ripristinare, diciamo, quell'immagine della dignitas umana. Ma io lo capisco, ma poi perché poi, come dire, avevamo tutti raccontato questa vicenda come molte altre, come dire, è giusto raccontare le vicende nel loro inizio, ma altrettanto con la stessa attenzione anche nella loro conclusione, indipendentemente da quale essa sia, insomma, per certo, cui... ma su questo sono d'accordo con lei, guarda. Poi la dignità, secondo me, se la dignità la appartengo forse, ma la dignità è qualcosa di estremamente importante. Se noi la valorizziamo, allora valorizziamo anche il senso dell'etica, dello Stato, dell'appartenenza, del buon fare di chiunque. Se invece la sacrifichiamo e la rendiamo qualcosa di marginale, non si costruisce nulla. Come si dovrebbe risarcire, secondo voi, chi è stato assolto da accuse che gli hanno procurato un danno concreto? Scrivetecelo, se vi va, sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter, invece, l'account è Raf Calantra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!